svegliavi con un bacio e poi te ne andavi a letto mentre noi correvamo in quella scuola che ci dicevi insegna a vivere, ma la vita l'ha insegnata tu ogni giorno un po' di più con quegli occhi innamorati tuoi di due figlie matte come noi. Cosa non darei perché il tempo non ci invecchi mai. Ho imparato a cantare insieme a te nelle sere d'estate, nei caffè. Ho imparato la tua malinconia, ogni istante, ogni miraggio. Per le feste tu non c'eri mai, mamma apriva i pacchi insieme a noi, il lavoro ti portava via, la tua solitudine era mia. darci il tempo perso ormai.